in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, bentornati alla rassegna stampa di Radio 24. Ieri non c'erano i giornali in edicola perché noi giornalisti della carta stampata abbiamo il 15 di agosto, non lavoriamo mai, come però avete naturalmente potuto seguire tutte le notizie perché invece i giornalisti della radio e quelli del sito lavorano. E oggi quindi tornano i giornali in edicola, sono molto ricchi, cercano un po' di riassumere questa giornata e soprattutto di approfondire gli argomenti degli ultimi due giorni, perché a Ferragosto e anche ieri sono successe molte cose, molti politici anche hanno esternato le loro opinioni. Cominciamo dal Corriere della Sera, che comunque si focalizza sui temi economici, e quindi l'editoriale dei due economisti Alberto Alesina e Francesco Giavazzi si intitola Una terapia coraggiosa. Ricorderete, proprio due settimane fa avevamo letto un editoriale di Alberto Alesina che invitava Renzi a invertire le sue priorità, cioè a rimettere al centro l'economia, e qui si torna sui temi economici. Quello che suggeriscono Alesina e Giavazzi alla domanda che fare per riportare l'Italia alla famosa crescita, per contrastare un rallentamento generalizzato dell'economia dell'euro, la soluzione migliore, tra parentesi, come spiegato da Guido Tabellini sul Sole 24 Ore del 25 luglio e come propone un numero crescente di voci, sarebbe un taglio simultaneo delle tasse in tutti i paesi, finanziato dalla BCE e accompagnato da corrispondenti graduali riduzioni di spesa. Senza l'aiuto della politica fiscale, infatti, la Banca Centrale Europea da sola non riuscirebbe a invertire la rotta. È possibile che Matteo Renzi, sfruttando la sua abilità politica e l'occasione della presidenza italiana dell'Unione Europea, riesca a convincere gli altri paesi e in primis la Germania, ma non sarà facile. Occorre quindi predisporre una strategia alternativa, cioè chiedersi che cosa potrebbe fare l'Italia se dovesse agire da sola. Vi sono due strategie alternative. La prima è coraggiosa: tagliare subito e in modo permanente le tasse sul lavoro. E naturalmente poi continuano Alesina e Giavazzi, l'editoriale lo trovate a pagina 1 del Corriere della Sera e poi continua a pagina 33. Sulla copertina del Corriere della Sera anche un riassunto del quirinalista del Corriere Marzio Breve sulle riflessioni del capo dello Stato che, sapete, prima di Ferragosto ha incontrato il premier Renzi. Napolitano, fiducia in Renzi e Padoan, che è il nostro ministro dell'economia, l'agenda che può rilanciare l'economia. E qui la continuazione la trovate a pagina 3. C'è anche un'intervista al ministro del lavoro Poletti, che poi trovate a pagina 5 di Enrico Marro. Il titolo che il Corriere della Sera dà a questa intervista è interventi sulle pensioni alte, si ricomincia a parlare appunto di come reperire quei 20 miliardi secondo alcuni che mancano per finanziare tutte le misure dell'autunno. Allora il ministro del lavoro spiega che c'è l'ipotesi di un contributo o di un ricalcolo dell'assegno, soprattutto anche per aiutare gli esodati, sapete, quelle persone che non sono prepensionate ma non possono neanche più lavorare, quindi sono in una specie di limbo, ma quasi un incubo, in cui appunto non hanno di fatto un'entrata. Poletti quindi dice sull'articolo 18, altro tema che è stato di nuovo rilanciato, c'è chi di nuovo ne propone l'abolizione, Poletti risponde no, basta il contratto di inserimento. La fotonotizia è dedicata agli europei di atletica con le belle vittorie, con le belle medaglie di Valeria Straneo, che sapete ha avuto l'argento nella maratona, e Libania Grenò, che ha invece avuto l'oro nei 400 metri. La prima pagina della Repubblica è invece un retroscena spiegato da Claudio Tito: ci sarebbe un patto sulla flessibilità tra il nostro governo e l'Unione Europea, quel famoso tetto del 3% tra deficit e PIL, sul tavolo uno sconto da 5 miliardi. Quello di cui Claudio Tito parla è una trattativa segreta per il taglio di alcuni parametri del famigerato Fiscal Compact. La fotonotizia è dedicata all'Iraq, perché naturalmente la guerra purtroppo lì continua, non si è certo fermata per Ferragosto. Nuova strage di Yazidi, quella minoranza etnica che è particolarmente invisa all'ISIS, che in questo momento ha di fatto il controllo dell'Iraq. E poi, lo avete sentito anche nel GR, le dichiarazioni shock dell'esponente dei 5 Stelle di Battista, che sostanzialmente in un post ha dato ragione, ha detto che ci sono delle ragioni ragioni dei terroristi che bisogna capire e con i terroristi bisogna dialogare. Il commento che poi trovate a pagina 6, tanti commenti in realtà, ma vi segnalo in particolare quello di Francesco Merlo, il Kissinger di Beppe, che continua appunto, inizia a pagina in copertina e continua poi a pagina 6. La prima pagina del Corriere della Sera, abbiamo sentito prima Alesina e Giavazzi che citavano un editoriale di Guido Tabellini del 25 luglio, oggi ce n'è un altro sempre in tema di crescita, fisco e lavoro, riforme urgenti per la crescita. Quindi vediamo che un po' gli economisti di punta del nostro paese sono tutti d'accordo su queste misure. Ora che Renzi ha incassato questo primo sì alla riforma del Senato, speriamo che si occupi appunto proprio solo ed esclusivamente delle riforme economiche. Vi leggo le prime righe dell'editoriale di Tabellini. Perché l'economia italiana non riesce a uscire dalla recessione? È da questa domanda che bisogna partire per impostare qualunque strategia di politica economica. La risposta va cercata negli eventi del 2011, quando in seguito alla crisi dell'euro l'Italia fu colpita da un sudden stop, un arresto improvviso nell'afflusso di capitali dall'estero e una fuga di capitali privati, tipico dei paesi emergenti. Il sudden stop ha fatto crollare la domanda interna attraverso tre canali. Una feroce stretta creditizia, una forte stretta fiscale, un effetto diretto dell'incertezza e della mancanza di fiducia sugli investimenti e sui consumi di beni durevoli. Questo editoriale continua poi a pagina 4. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche due commenti sulla vicenda dei titoli Fiat. Sapete che c'è stato un recesso appunto da questi titoli e allora Alessandro Platerotti e Luigi Zingales, Alessandro Platerotti vice direttore del Sole 24 Ore e Luigi Zingales economista, ci spiegano un po' le ragioni dell'investitore di breve e lungo termine. Nelle ragioni a confronto, quindi il titolo dell'intervento di Alessandro Platerotti, quando il disegno industriale è più forte della speculazione, e poi quello di Luigi Zingales, la logica dell'investitore e i conti del cassettista. E la consueta lettera al risparmiatore ogni domenica sul Sole 24 Ore, in cui Vittorio Carlini si occupa di un titolo quotato per cercare di spiegare quali sono i vantaggi o eventualmente gli svantaggi di un investimento in questo titolo. Oggi l'azienda scelta è Creval, che è un gruppo bancario, cioè il credito valtellinese, più consulenza, risparmio gestito e carte di credito. La prima pagina della Stampa è dedicata all'Iraq. La Stampa apre appunto sulla guerra in Iraq perché ieri è arrivata, l'avete sentito anche nei GR, anche quelli di ieri, la decisione dell'Unione Europea che è pronta a inviare armi e quello che noi chiamiamo catenaccio, cioè la riga sotto il titolo, una con questa bufera su Di Battista, che è un esponente direi di punta del Movimento 5 Stelle, che ha di fatto giustificato il terrorismo. La fotonotizia è dedicata alle medaglie conquistate ai mondiali di atletica dalle nostre ragazze dell'atletica e poi soprattutto al team della maratona, perché le cinque ragazze che hanno partecipato alla maratona, oltre a Valeria Straneo che ha vinto l'argento, si sono piazzate tutte tra le prime 20, quindi un grande successo. E poi vi segnalo, e continua a pagina 26 e 27, un bellissimo intervento del priore di Bose, Enzo Bianchi, le lezioni che ci insegnano i boschi. Le piante sono vecchie amiche che ci interrogano, offrono la loro ombra ai nostri dubbi, a proposito appunto di articoli da leggere a Ferragosto o in questi giorni in cui forse abbiamo ancora un po' di tempo prima di tornare al lavoro, comunque prima di tornare a una giornata feriale. Ecco, vi segnalo questo bel approfondimento, di questa bella riflessione di Enzo Boschi sulla natura e sulle piante, in particolare sugli alberi. Naturalmente l'Avvenire ha un'apertura ed è per questo che ve lo segnalo da qui, anche se naturalmente la cronaca la trovate su tutti i giornali, sul viaggio di Papa Francesco a Seul. Un milione in piazza per il Papa a Seul, la lezione dei martiri. Folla oceanica partecipa alla cerimonia di beatificazione di questi 124 testimoni della fede, e poi il virgolettato di Francesco: ci insegnano a mettere Cristo al di sopra di tutto, ipocrita professare la povertà vivendo da ricchi. Dal Messaggero anche qui un'apertura economica, il piano di Renzi sulla flessibilità, anche qui c'è un po' un retrosceno, comunque un tentativo di riassumere quelle che potranno essere le mosse del governo e gli annunci di Matteo Renzi nei prossimi giorni. Il Premier pronto a accettare il monitoraggio UE sulle riforme in linea con Draghi. Sapete che oltre ad aver incontrato Napolitano, il capo dello Stato, come abbiamo detto prima di Ferragosto, Renzi ha anche incontrato il governatore della BCE Draghi. L'obiettivo L'obiettivo è quello di ottenere più margini per la riduzione del debito e del deficit. Dal Messaggero vi insegnalo un'intervista al ministro dell'istruzione Giannini che dice: la scuola adesso si cambia, vogliamo dare più fondi per studiare all'estero. Questa è la dichiarazione forse più interessante, visto che negli ultimi anni anche i fondi per l'Erasmus sono un po' diminuiti. La dichiarazione più interessante è appunto fatta nell'intervista a Maria Latella, che poi trovate a pagina 11. Dal Giornale vi segnalo la fotonotizia, che è invece dedicata alla vicenda dell'orsa Danica, che trovate peraltro su tutti i giornali. Sapete, quest'orsa in Trentino ha attaccato un cacciatore di funghi che è ferito ma non gravemente. Lo ha fatto perché era con i suoi cuccioli, e come tutti gli animali, e gli orsi in particolare, quando sono con i cuccioli le femmine della mamma orsa diventa particolarmente aggressiva. E allora questo appello di Oscar Grazioli, che spessissimo si occupa di temi che riguardano gli animali, per il Giornale: non uccidete l'orsa che difende i suoi piccoli. In realtà questa ipotesi è stata scongiurata, però comunque si pensa di catturare quest'orsa e poi deciderne il destino. Il titolo però del Giornale è dedicato a quello che viene definito il delirio a 5 stelle: Grillo dà ragione agli ammazzacristiani. Sul blog del leader del movimento La difesa del terrorismo islamico, questo post, lo ricordavamo, è stato fatto non da Grillo ma da Di Battista, ma che comunque è molto vicino a Grillo, l'unica arma per chi vuole ribellarsi, così è stato definito il terrorismo. Su Libero invece un approfondimento sui consulenti del governo Renzi. Sapete che ogni governo ha sempre una squadra di consulenti, ecco, con un titolo un po' provocatorio, naturalmente, come sempre, quelli sono quelli di Libero, come spesso sono quelli di Libero: la spending non review ma de più, riciclati e raccomandati, 300 consulenti di Renzi. Trovate anche poi la lista completa a pagina 3 del Giornale. Dal Fatto Quotidiano invece un titolo molto critico su Renzi: impiccati agli 80 euro, sapete, quel famoso bonus che doveva essere poi esteso anche alle partite IVA, però Renzi ha detto per ora non ci sono i soldi. È una dichiarazione tra l'altro confermata prima di Ferragosto da altri ministri, come sottosegretario Del Rio, da altri membri del governo come il sottosegretario Del Rio e lo stesso ministro Poletti. A settembre si taglia, secondo il Foglio, serve una manovra da 20 miliardi, quei 20 miliardi di cui parlavamo all'inizio, il Premier ne cerca altri 10 per confermare il bonus, anche se Del Rio dice che è servito a poco. Tradotto: non rispetteremo i vincoli dell'Unione Europea. E vedremo appunto come abbiamo detto, ne vedremo nei prossimi giorni quali saranno le decisioni del governo in fatto di economia e di misure economiche. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, solo, dico io, un palchettone dedicato all'atletica, perché il titolo principale è del calcio, perché ci sono naturalmente tutte le novità del mercato. La Juve bussa per Falcao, importante accelerata nelle trattative dei campioni d'Italia. Il Valencia è tornato a farsi vivo per Lorente, offrirebbe 10 milioni. Bianconeri chiedono il doppio, studiano il colpo grosso, magari in prestito. Il colombiano Falcao, appunto, il colombiano Lorente ha un ingaggio alto, ma il Monaco gli sta stretto. E poi c'è Pastore, tutte le novità sulla Gazzetta dello Sport. Vediamo un po' le pagine interne dei giornali prima di passare ai supplementi culturali della domenica. Vi dicevo, l'intervista al ministro Poletti la trovate a pagina 5 del Corriere della Sera, con quella dichiarazione: non serve abolire l'articolo 18, il famoso statuto dei lavoratori, basta il contratto di inserimento. È molto interessante, c'è anche uno schema riassuntivo su tutti i numeri delle pensioni. E vi segnalo anche una dichiarazione per quanto riguarda le imprese. Io partirei dall'articolo 41 della Costituzione, che è quello che tutela le imprese: c'è bisogno di un cambio di passo culturale. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche naturalmente, un'intervista che prima non vi ho segnalato al Ministro della Salute Lorenzin, che torna sulla questione dell'eterologa e dice: le ragioni possono dare il via, ma io spero che aspettino. Sapete, sulla questione che non abbiamo una legge sull'eterologa, alcune regioni vogliono procedere comunque, il Ministro Lorenzin vorrebbe aspettare o un decreto legge o addirittura l'esame del Parlamento, che però a questo punto naturalmente è rimandato a settembre. Vi segnalo dalla Repubblica che forse quella che dedica il maggior spazio sono le pagine 6 e 7 alle dichiarazioni shock di Battista, cioè il terrorista che ha scritto in un post sul blog di Grillo: il terrorismo è l'unica arma per chi vuole ribellarsi. Vi risegnalo l'intervento di Francesco Merlo che ha intitolato appunto La diplomazia patacara del Kissinger di Grillo e Casaleggio, con una breve intervista a Walter Rizzetto, altro esponente del Movimento 5 Stelle, che dice, parla a titolo personale, per quelle atrocità non c'è giustificazione, e un'altra breve intervista al padre della ragazza morta, Benedetta Ciaccia, negli attentati di Londra del luglio 2005, non sa quel che dice, è un'offesa al dolore dei familiari delle vittime. E a proposito di guerra, terrorismo e dichiarazioni incaute, vi segnalo invece un bellissimo intervento di David Grossman, di cui ci dà conto Davide Frattini, che è inviato del Corriere della Sera a Gerusalemme, lo trovate a pagina 13. Ieri lo scrittore era in piazza Rabin a Tel Aviv con migliaia di israeliani per cercare di far sentire anche le ragioni di chi pensa che l'intervento a Gaza sia esagerato. E vi leggo appunto il titolo del pezzo di Frattini: è quello che è bene per il mio vicino è bene anche per me, e vi leggo l'ultima parte. Il romanziere David Grossman è appunto uno dei principali romanzieri israeliani contemporanei, che ha perso il figlio Uri, carrista, nello scontro del 2006 con l'Hezbollah libanese. È preoccupato dalle frange fanatiche, gli ultraebrei, che un altro scrittore, Amos Oz, ha definito neonazisti. Ieri Piazza Rabin era circondata dalla polizia per evitare assalti, come è successo in altre manifestazioni, ha detto ieri Grossman. Movimenti pericolosi emergono nel paese. La disperazione, l'ansia, il razzismo, il nazionalismo stanno sgorgando tutti insieme, e avverte la destra al governo. I politici non gioiscano nel vedere la sinistra minacciata e zittita, perché poi toccherà a loro. Gli estremisti attaccheranno tutti i moderati. Cari amici, è il momento di svegliarci. Mentre dormivamo, questi fascisti sono cresciuti tra noi. Se è un'altra dichiarazione che trovo molto forte, molto importante, è: la soluzione non è militare. Israele non potrà respirare se la gente di Gaza si sente soffocare. Alleggeriamo un pochino con un altro articolo di Repubblica: i bambini italiani piccoli paperoni, e loro la paghetta più alta d'Europa. Così ci spiega Cristiana Salvagni a pagina 23 della Repubblica. Ma torniamo un po' alle notizie economiche, alle borse. Domani riaprono le borse, c'è molta attesa, e c'è un approfondimento a pagina 5 di Andrea Franceschi del Sole 24 Ore. L'Europa brucia 600 miliardi, di tanto infatti si è ridotta la capitalizzazione dei listini continentali dai massimo di inizio giugno, quindi l'inizio di giugno, e poi c'è stato un giugno turbolento, un luglio altrettanto turbolento, e vedremo come si concluderà agosto. Dalla stampa vi segnalo, è un po' l'unico giornale a parlarne, sicuramente oggi ci ritroveremo a parlarne ancora, e gli scontri nel Missouri, dove sapete è stato ucciso dalla polizia un adolescente nero, e ora ci sono degli scontri che ricordano quelli di Los Angeles di qualche anno fa. È stato indetto il coprifuoco e sicuramente ci sarà molta cronaca da raccontare nelle prossime ore. Ancora scontri nel Missouri, proclamato il coprifuoco, ci scrive Paolo Mastro Lilli, è inviato a New York, e forse sicuramente i giornali poi manderanno anche degli inviati nel Missouri, perché appunto la vicenda si sta molto gonfiando. Ma passiamo alle pagine culturali, perché purtroppo come sempre non abbiamo tantissimo tempo, ma ci tengo a segnalarvi tutti i supplementi che escono oggi, a partire naturalmente dalla nostra domenica del Sole 24 Ore, e cominciamo dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola La maschera. È una citazione di Robert Barton ed è questa: non c'è maschera che possa a lungo nascondere l'amore, quando c'è è evidente, quando non c'è è inutile fingerlo. Scrive Ravasi: la natura di questa rubrica esige la dipendenza da figure più intelligenti e originali di chi la redige. Lo scrittore inglese seicentesco Robert Barton ironizzava sui cattivi autori che infarciscono i loro magri testi col grasso di altri libri. È quello che accade a me. E allora il debito è da riconoscere con onestà. E lo faccio partire dal Duca di La Rochefoucauld, con le sue riflessioni o sentenze massimo e morali a cui ho spesso attinto. Scusatemi, la primissima citazione era appunto di La Rochefoucauld. Così faccio anche oggi con questa considerazione folgorante. L'amore autentico, se si accende nel cuore, non può essere celato. Irradia il volto, trasfigura le azioni, rende frementi i pensieri e esalta le parole. Drammatico è però il suo contrario. Quando non c'è amore è inutile fingerlo, perché ben presto l'altro ne intuisce la falsità. Non per nulla Cristo, che era estremamente compassionevole col peccatore, non riusciva a sopportare l'inganno dell'ipocrita che ostenta una fede che non possiede. E poi vi segnalo dalla prima pagina anche la consueta rubrica del nostro direttore, del Sole 24 Ore e di Radio 24, Roberto Napoletano, Memorandum. Sono sempre considerazioni che Napoletano raccoglie un po' girando per l'Italia, in questo caso anche in vacanza, e ha toccato Stromboli e Lipari, e a Stromboli ha trovato comunque segnali di crisi che ci racconta, come ha fatto nell'ultimo anno, appunto entrando in un negozio ci riporta questa frase: dalle 10 a mezzanotte ho accolto non so quanta gente, ma ho venduto solo per 150 euro, poi dicono che qui non c'è la crisi, la verità è che non ci sono più soldi. Il commento di Roberto Napoletano, verità amara anche questa, però a Lipari c'è un tocco di ottimismo grazie alla bellezza di quest'isola siciliana, e lì ha incontrato un cantante e molti turisti, e appunto c'è questo invito un po' sia come scriveva verità amara, cioè a confrontarsi con la verità della crisi, con il crollo dei consumi, ma anche a cogliere questi segnali di ottimismo anche dalla bellezza estrema del nostro paese, tutto, e in particolare di alcuni posti come Lipari. La copertina, però, diciamo, il pezzo di apertura della domenica è dedicato a un titolo scritto da due autrici italiane ma pubblicato da Phaidon, la casa editrice inglese. Il libro è The Essence of Japanese Design, e appunto è il design della concordia. Si intitola Wa, che significa pace in giapponese. È un libro che racconta l'essenza del progettare alla giapponese, tra uomo, natura, sacro e quotidiano. E poi invece vi una pagina interessantissima, tutta dedicata ai materiali, e quindi con una recensione di un libro, The Future of Plastics, quindi in questo caso il materiale è la plastica, alla mostra The Future of Plastics, che è in corso alla Fondazione Piar di Napoli. E poi invece una recensione appunto di un libro che si chiama Formica Forever, e questo invece è dedicato alla formica, quel materiale laminato, economico e chic, che ha reso colorato e pulito il mondo e oggi compie 100 anni, questo libro lo celebra. E poi ancora un altro libro, questa volta di Electa, invece sul cemento, altro materiale che troviamo dappertutto. E infine un elogio di tutte le scatole di latta, Un sogno fatto di latta, un articolo di Dario Cimorelli. E poi la scomparsa di Robin Williams questa settimana, ce lo racconta un obituary, cioè il necrologio, se vogliamo il necrologio esteso, obituary lo chiamano gli anglosassoni, Goffredo Fofi, irreverenza addomesticata, grande caratteristica, ottimo nei film di Peter Weir e di Gilman. Secondo Fofi però Hollywood ne ha sempre stemperato lo spirito ribelle. E poi il secondo obituary di un'altra scomparsa eccellente di questa settimana, di Lauren Bacall, Saverio Esposito, Lauren Bacall, questione di stile. Dalla lettura del Corriere della Sera vi segnalo invece un'intervista a un astrofisico, Samuel Chao Chun-Ting, che ci racconta Materia Oscura, Io ti prenderò, l'ultima frontiera della fisica. Ce la racconta appunto questo premio Nobel. I dati in arrivo dallo spazio potranno aiutarci anche a prevenire i terremoti, che sapete per ora è un'impresa impossibile. E poi vi segnalo un articolo di Evelina e Dario Voltolini, che ci raccontano come hanno fatto pace con il cibo. In realtà è il racconto di una cronaca a quattro mani, di una resurrezione cominciata con un libro, finita con una vacanza in riviera tra sagre polari, ristoranti stellati e umile trattorie, un padre e una figlia e la battaglia vinta contro l'anoressia, questo tema che abbiamo toccato anche nelle settimane scorse, quando, lo ricorderete, è stata la deputata del PD Michela Marzano ha fatto una proposta per mettere fuori legge, anzi appunto punire penalmente tutti quei siti che inneggiano i siti pro-ANA, che inneggiano associano all'anoressia. La copertina della domenica di Repubblica è dedicata a Harry Potter e James Bond, la battaglia di Scozia. Infatti tra un mese e un giorno, lo spunto è che tra un mese e un giorno si vota in Scozia per il referendum che potrebbe sancire l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. La madre del maghetto più letto del mondo e il padre di tutti gli 07 spiegano perché voteranno no oppure sì all'indipendenza. Domenica della Repubblica vi segnalo anche un'intervista, la consueta lunga intervista bellissima di Antonio Gnoli, oggi è all'attrice Milena Vukotic, che forse in troppi ricordano solo per aver interpretato la moglie di Fantozzi nella saga di Fantozzi. In realtà è una grandissima attrice di teatro che ripercorre un po' la sua carriera e i suoi incontri. La rubrica, sapete che mi è molto cara, di Walter City, invece dedicata ai poeti, oggi è dedicata al poeta Philip Larkin. L'invidia di Larkin per i tempi dei Beatles sono gli anni della Swinging London, della minigonna, della libertà sessuale. Philip Larkin era un conservatore, un Tory acuto e acido, cantore della vecchia Inghilterra, amato dalla Thatcher, si sente in ritardo sui giovani e urla il suo odio per quella facile felicità, ma poi si apre a una visione mistica. Dalla Repubblica vi segnalo anche un'intervista di Fabio Gambaro a Lorenzo Mattotti, uno dei nostri più grandi disegnatori e illustratori, che però vive a Parigi da tanto tempo. Il Manifesto invece ha un numero speciale tutto dedicato alle vignette di Mauro Biani, Lasciare il segno, con un commento di Tommaso Di Francesco. La copertina invece del Messaggero, del Macro, il supplemento culturale del Messaggero, è dedicata a un saggio sul karaoke, la prevalenza del karaoke, imitazione, successi mediatici, universi virtuali, è l'epopea del dilettante che prende il microfono, lo smartphone e improvvisa. La scrittrice croata Dubravka Ugresic analizza i mutamenti di una società che adora i selfie e non vuole prendersi responsabilità. E infine dal Fatto Quotidiano vi segnalo un'altra grande intervista a Mario Dondero, settimana scorsa o due settimane fa, non ricordo, era su Repubblica, oggi lo ha intervistato anche Malcolm Pagani del Fatto, dice cose leggermente diverse, è sempre bello leggerlo, questo grande fotogiornalista che ha più di 80 anni ma ancora ci può insegnare tante cose sulla sua professione e sul modo di guardare al mondo. Infine vi segnalo che oggi con il Corriere, anche se è domenica, c'è in edicola Io Donna con 6 scrittrici che raccontano 1000 voci di donne da tutto il mondo. Era l'ultima segnalazione, un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli e una buona coda di Ferragosto a tutti.